Bella raga, sono Pietro. Anche di Solo Vinili Libri, io ascolto Do It Yourself Invasion, Radio Onda Rossa, dai! Hey everybody, this is John Conley of Nuclear Assault. You are listening to Onda Rossa on Do It Yourself Radio. Please call in your support. Io sono Roberto di Tutti i Pazzi Fanzine e anch'io ascolto Do It Yourself Invasion, lotta dura per la verdura. È la regione intermedia tra la luce e l'oscurità, tra la scienza e la superstizione, tra l'oscuro baratro dell'ignoto e le vette luminose del sapere. È la regione dell'immaginazione. Non delegare, partecipa. Ventuno e 08 minuti primi in questo momento. Ritornano le trasmissioni in diretta su Radio Onda Rossa 87.9 in FM della banda romana e laziale. Ed in diretta streaming attraverso il sito www.ondarossa.info. E quindi ritorniamo con Do It Yourself Invasion. Dopo un paio di martedì di pausa, e sempre dal sito di Radio Onda Rossa potete sostenere questo progetto andando a cliccare su Sostieni. E quindi dove troverete tutte le coordinate per sostenere Radio Onda Rossa. Oppure potete farlo attraverso lo storico conto corrente postale, il 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 185 Roma San Lollo. Eh sì, perché quest'anno andremo presto a festeggiare i primi 40 anni di Radio Onda Rossa. E quindi dovete sostenere Radio Onda Rossa per sentirla ancora libera nell'etere. Non ha importanza quanto sia il vostro contributo. Però anche se piccolo, per quanto possiate, è importantissimo per Radio Onda Rossa. abbiamo in programma delle settimane abbastanza intense. Eh sì, prossimamente andremo ad elencare le iniziative di festeggiamento appunto per i 40 anni di Radio Onda Rossa. Ci saranno belle sorpresine, eh? Per poter scrivere a Radio Onda Rossa l'email della redazione ondarossa@ondarossa.info. Mentre se volete scrivere al sottoscritto potete farlo attraverso l'indirizzo email fantasma@ondarossa.info. E quindi per segnalarci iniziative, per proporci le vostre autoproduzioni, in questo spazio siamo ben felici di rimandare il tutto. E quindi fatevi vivi. Il numero di telefono è sempre lo stesso dal 1977. 0649 1750. Quindi è il numero di telefono per entrare in contatto in diretta. Vabbè, noi iniziamo un po' sbarazzini questa sera, eh? Loro vengono dalla Svizzera, sono i Denner Clan. Dal loro lavoro del 2013, dal titolo San Bernardino. Loro sono i Denner Clan e questa è la loro Delinquente. Yeah. ed è uscito da pochissimo invece il nuovo progetto di Dom La Muerte, membro fondatore dei Citachrome Motherfucker, tra le altre cose, che se ne esce quindi da pochissimo con questo suo nuovo progetto, gli EXP. Ci ascoltiamo una traccia da questo lavoro dal titolo Lazy Sunny Day. Traccia dal titolo Amsterdam 66. Ed a proposito di Citachrome Motherfuckers, è uscita da poco in versione doppio CD o doppio vinile The Furious Era, una ristampa della discografia integrale dei CCM, uscita per Area Pirata Record. Questo a seguito dell'uscita invece del libro No More Pain. La storia dei CCM scritta da Antonio Cecchi. Nelle prossime puntate andremo a parlare appunto di questa pubblicazione. Intanto ci sentiamo i CCM dal disco Right to be Italian, e questa è la loro 400 Fascists. Questo appunto era 400 Fascist. Titolo spiegato bene appunto nel libro No More Pain, l'arco italiano raccontato da Antonio Cecchi. Che appunto scrive. E veniamo al titolo del disco, un sabato pomeriggio dei Parà della Folgore, distanza a Pisa. Non molti, moltissimi, 400 per l'appunto, decisero di mostrare alla Pisa Rossa e agli sporchi suoi abitanti chi comandava in città. Così, radunatisi nel tardo pomeriggio durante la libera uscita, percorsero tutto il centro storico della città, pestando malcapitati e dando la caccia ai diversi. Questo fantastico raid fascista si spinse fino a Piazza Garibaldi, dove l'intervento degli uomini in divisa, stavolta di un colore diverso, evitò di poco che ci facessero letteralmente a pezzi. I giornali diedero poco spazio all'accaduto, come sempre minimizzando, ma vi garantisco che sentire arrivare 400 fascisti tutti insieme è una sensazione davvero spiacevole e altamente inquietante. Quindi appunto da questa storiaccia il titolo del pezzo dell'EP 400 Fascists. Mentre da Pisa ci spostiamo nella zona di Perugia, loro sono gli Ogre, dal loro lavoro Thanksgiving Day, uscito per Sparachiodi. Ci ascoltiamo la terza traccia, Horror Devourer. We'll be right back. Allora, questi appunto gli Ogre da Perugia. Noi rimaniamo in Umbria. Ci spostiamo a Terni. Eh sì, perché è uscito il nuovo lavoro dei Diabete. Disco nuovo dal titolo Senza Denti, uscito in vinile per Toulouse Lautrec. Sonatine Produzioni, Tanato Records, Shove Records e Long Rail Records. E questa è la loro Il giorno dei fuochi, Diabete. Yeah. Bene, bene, bene, bene, bene. No, dico, quando nel giro di pochi secondi, insomma, bussano alla porta e ti portano diversi doni ben accetti. Uno di questi doni lo possiamo anche trasmettere via etere. Magari se mi aiutano a scartarlo. No, no, no, no. Quelle sono gioie che... Allora, questi diabete da Terni, su questa traccia, ospite i synth Mai Mai Mai, mentre da Firenze questi Nudist dal loro lavoro See the Light Beyond the Spiral, disco uscito nel 2013. Ce l'ascoltiamo con la traccia omonima, See the Light Beyond the Spiral. E questi erano i Nudist da Firenze. Mentre ci spostiamo a Cremona, qui del loro ultimo lavoro, Carnis Tempora Abyssus. E loro sono i Lamantide. Trasfigurato, piombo in oro. Questi appunto i Lamantide da Cremona. Un abbraccio a Valva e a chi trasmette con lui, con la trasmissione Sporco Dentro su Radio Groda. E nel frattempo è uscito il nuovo disco dei Kalashnikov. Dal titolo Romantic Punk. Quindi potete contattare i Kalashnikov Collective per ottenerlo. Noi ci ascoltiamo una traccia estratta appunto da questo romantic punk appena uscito. Titolo del pezzo: riflessioni su di lei, su di noi e sul futuro. Loro sono i Kalashnikov Collective. Dai, yeah. Sono pazzo! E sentite? Non sono pazzo! Allora neanch'io sono pazzo! Neanch'io! Neanch'io! Neanch'io sono pazzo! Allora, appena ascoltati Congegno dal loro ultimo lavoro Metamorfosi, e a quanto ne so hanno anche fermato il progetto Congegno, e già sotto vanno gli Afasia dal loro lavoro Voltare Pagine. Ce la riascoltiamo da capo. Questo è Capital Stalismo. Maledetta dislessia. Capital Sadismo. Da capo Afasia. Da pochissimo portato in dono negli studi di Radio Onda Rossa, e questo è il nuovo progetto di Lorenzo Canevacci. Loro sono gli Wendy. Da questo nuovo lavoro, Idols and Gods. Questa la rimettiamo da capo, Feed the Doubt. We must defend talking about sci-fi theories. Not talking about conspiracy ideas. I'm just saying that reality is much more complex than they told us. Già sappiamo che al prossimo Tuschercore Fest ci sarà una reunion. Eh sì, perché si riformano per un concerto. Automatica aggregazione. Maya J, she comes from 1963, just like me. Yes. Noi ce li ascoltiamo da Ancora Noi, Ancora Voi. I feel as we always knew each other. Loro sono di Automatica Aggregazione, no. E questo è il loro Cane Sciolto. Ma non certezze sotto ragazzi, l'ho capito è la realtà. Non c'è nessuno come te, fermo ad ascolta. Non c'è nel mondo tale sciolto come te. Non te ne frega un cazzo di sentenze perché ti servo lì. Non c'è rispetto per ragazzi come te. Ti rivolgo alle spalle ma non so se voglio me lo sguardo. Non c'è nel mondo cane sciolto come te. Si radano la testa ma non hanno la tua rabbia. Fermi senza memoria, riscrivo la storia. Non importa, ci sei solo tu. E ci sei solo tu. Quindi un'occasione per rivederli dal vivo a fine luglio al Tuscher Car Fest. Mentre di prossima uscita il nuovo lavoro degli ultimi. Per ora ce li ascoltiamo da un EP dal titolo Questi anni. E questa è la loro versione di Eroe dal vivo. Ah, nel frattempo presenta la prossima canzone, si chiama Eroe. Questo pezzo è stato scritto perché c'è una guerra in corso e non si deve cambiare continente per andare a cercarla. È la guerra delle morti sul lavoro. Ogni giorno 4 morti sul lavoro sono in Italia. Cadi dal punteggio, vieni schiacciato da una macchina industriale e non ci stai più. Tutti i giorni uomini e donne si svegliano la mattina presto per portare a casa un pezzo di pane e talvolta non ritornano. Talvolta non ritornano. A tutti gli eroi senza medaglia. Bravo, paro, paro. Radio, questa è per te, eh. Partire a morire e ogni volta che qualcuno si indigna con una lacrima si lava le mani, pochi secondi in un telegiornale e tutto il tempo per dimenticare, per dimenticare. Dentro con tante morti ammazzati, trascinati in guerre senza ragioni, giustiziati per servire un padrone. Ogni mattina dentro questo macello, siamo in 50 dietro a questo cancello, sveliamo in coda senza dire parole, eppure oggi abbiamo visto il sole. Vabbè, andiamo a chiudere il cerchio, l'Aida provincia, Tuscia Clan. Non mi fanno cantare perché dice che non c'ho la pronuncia inglese. Anche loro prossimi di una nuova uscita, loro sono in La Furia. Non so troppo del... Siamo nella zona Lago di Garda, loro sono in zona d'ombra, visti da pochissimo al concerto segreto. Concerto improvvisato in scantinati di posti X. Ce li ascoltiamo qui del loro ultimo lavoro, Guerra all'apatia. Questa è la quinta traccia, Inverno infinito. Vabbè, giustamente qui arrivano notizie. No, no, vabbè, lo diciamo, il 21, vabbè, passo anche un pezzo perché nominarli e poi, insomma, non passarli. Sì, che rosicata. Perché? Se li nomini e non li passi. Certo. Non lo diciamo mai ancora di che si parla per far crescere la suspense. Va bene. Allora, ci prepariamo una bella notizia. È tutta la puntata che annunciamo reunion, dischi nuovi. Questa è una bella notizia. Ok, ci prepariamo. Nel frattempo però passiamo i Nofu, anche loro prossimi di un nuovo lavoro. Ci ascoltiamo una traccia nuova. Questo è Disposto Soggetto, loro sono i Nofu. Sequence. sole, pochi giochi, i bambini guardano su. Eh sì, ci arrivano così le notizie. Questo venerdì, Franti in concerto a Firenze al Next Emerson. Madre, tu che sei dolce, storie impaurite di felicità. Presto sonno ci prende. Quindi se vi volete vedere i Franti, potete farlo questo venerdì. Andiamo a chiudere così la trasmissione. L'appuntamento con Do It Yourself Invasion è per martedì prossimo, sempre dalle ore 21 alle ore 22:30 circa. E sei dentro un sogno, mi dici dormi, guardi l'ora, una piega cancella. Vi lasciamo con un po' d'automatico e poi alle ore 23 More Fire. Sole, pochi giochi, i bambini guardano su, una scia graffia il cielo, occhi scuri cercano sé, inventa madre, tu che sei dolce, storie impaurite di felicità, presto sonno ci prenderà, suoni lievi la tua voce. Mattina piove piano, me li vedo in marciapiedi, trasparenti il buio e i neon, è solo un altro giorno. Ti svegli e sei dentro un sogno, mi dici dormi, guardi l'ora, una piega cancella il tuo viso, suoni lievi la tua voce.